Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, poem, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream, and they spread themselves. E tenteremo nell'arco di questa trasmissione di rispondere a questa domanda. Iniziamo con un articolo di Alessandra Mulas, Tatakau o Natachi, donne che combattono dal 1870 ad oggi, utile per avere un'idea della storia del femminismo in Giappone. La nascita e lo sviluppo del movimento femminista giapponese si pone all'interno del complesso processo di modernizzazione che il Giappone compì alla fine dell'Ottocento e che si concretizzò con il passaggio da un regime feudale ad uno capitalista. Tale trasformazione implicò un sostanziale ripensamento di molti concetti, tra cui quello di classe e quello di genere, all'interno di una prospettiva di partecipazione attiva alla gestione dello Stato. Il concetto di cittadinanza, che fino ad allora si era identificato con la mera, completa sottomissione all'imperatore, si mosse in direzione di un ruolo maggiormente attivo. Si andava così definendo, anche attraverso un ripensamento dei corpi e dell'individuo, un concetto che il Giappone tradizionale non aveva mai messo perfettamente a fuoco. E ripensando all'individuo si poneva il problema del ruolo e della specificità femminili. La donna giapponese dell'epoca Meiji era soggetta all'uomo tanto a livello politico quanto familiare. Da un lato, infatti, era completamente sottomessa all'autorità dell'imperatore, al pari dell'uomo. Dall'altro, dipendeva in tutto e per tutto dall'uomo, che era a capo della famiglia, la cui organizzazione era per l'appunto patriarcale. Alle donne non veniva lasciato nessuno spazio pubblico. Sulla base dell'articolo 5 della Chan Keisatsu O, del 1900, le donne erano escluse dalla gestione e dalla riflessione pubblica su tutto ciò che aveva a che fare con la politica. Non avevano diritto di prendere la parola in pubblico e di unirsi in organizzazione. Tale legge venne modificata nel 1922 grazie all'impegno della giornalista scrittrice attivista Raiko Iratsuka, ma per molto tempo la presa di parola in pubblico venne considerata un comportamento sconveniente per una donna. We'll be right back. Il processo che portò al compimento di questo percorso si avviò fra il 1870 e il 1880, quando alcune donne in Giappone cominciarono a partecipare da un lato al Iyu Minken Undo, movimento per la libertà e i diritti popolari, dall'altro una serie di attività filantropiche che apparentemente non stridevano con l'immagine tradizionale della donna. Tuttavia, attraverso questo iniziale timido inserimento nella società attiva, si socchiuse per le donne una porta che permetteva di guardare oltre la propria impotenza verbale e fattiva. Nei primi decenni del Novecento, alcune donne cominciarono ad approfondire l'analisi dell'individualità e della sessualità, soprattutto attraverso la rivista Seito, che celebrava inoltre la creatività femminile, ponendo il problema del controllo delle nascite e della necessità di politiche sociali che permettessero alle donne di mantenere la propria libertà. Si trattava cioè di agire sull'assetto della società, modificandola in relazione alla propria specificità, e per fare questo era necessario lavorare anche in direzione di una partecipazione politica femminile. Nel 1945 alle donne venne concesso il diritto di voto. Pensate che in Italia il voto alle donne è stato concesso nel 1946, un anno dopo, e lentamente il loro accesso alla gestione della sfera sociale e politica venne assorbita. Tuttora resta però irrisolto il problema della spartizione dei compiti domestici e lavorativi all'interno della famiglia, nella quale la donna tende a sacrificare la propria carriera a favore del ruolo di madre e moglie, lasciando all'uomo una realizzazione professionale. Si è tornato perciò a sentire la necessità di una politica nuova nel campo sociale e lavorativo che tenga conto della parità raggiunta o pretesa tale fra i due sessi. Nel 1940 46, la Costituzione stabilirà che il matrimonio è basato sull'accordo tra donna e uomo, almeno in linea di principio, dunque, verrà affermata l'uguaglianza formale fra i due sessi. Così come in Italia e nel resto del mondo, però, i cambiamenti sulle donne in carne ed ossa richiederanno molto, molto più tempo. Pioniera del femminismo in Giappone fu Raicho Hirazuka, a cui accennavamo poc'anzi, nata a Tokyo nel 1886. Si laureò presso l'Università Femminile del Giappone e nel 1911 formò la prima rivista letteraria di sole donne, Seito, significa calzetto blu. In realtà il giornale si occupava moltissimo delle tematiche della sessualità femminile, dell'aborto, e fu spesso censurata dallo Stato. La rivista venne chiusa nel 1915 e successivamente Hirazuka fondò la Nuova Associazione delle Donne insieme all'amica e attivista per i diritti delle donne Ichikawa Fusae. Tradusse alcuni testi della scrittrice femminista svedese Ellen Key, che fu molto importante per la sua formazione. Fondò successivamente la Nuova Associazione delle Donne nel 1963 insieme a Nogami e all'artista Iwasaki Chihiro, e continuò a sostenere i diritti delle donne fino al 1971, anno in cui morì. Tra le collaboratrici della rivista Seiko ebbe anche la famosa poeta Akiko Yosano. Vediamo brevemente il rapporto delle donne con la politica ai giorni nostri. Nella Camera dei rappresentanti il 17,4% dei parlamentari sono donne. Nella Camera dei consiglieri le donne sono invece il 9,4%. In uno studio, Emma Dalton dell'Institute for Social Transformation Studies dell'Università di Wollongong tenta di spiegare il perché della così bassa presenza delle donne in politica e come la politica sia ostile alla presenza delle donne. Le ragioni di questa ridotta presenza ovviamente sono politiche, culturali, istituzionali, sociali come nel resto del mondo. Emma Dalton però concentra la sua attenzione nel ruolo dei partiti politici e in particolare si concentra in questo suo studio sul Partito Liberal Democratico Giapponese, l'LDP, il Partito Conservatore Giapponese. L'LDP è rimasto al governo per gli ultimi 53 anni ed ha una cultura politica che Emma Dalton definisce inospitale per le donne. L'LPD è un partito maschiocentrico in cui viene osteggiata e inibita la presenza delle donne, così come lo sono i discorsi sul sessismo e sulle discriminazioni di genere. L'ex primo ministro Mori, per esempio, sostenne che le donne che non avevano avuto figli non dovevano godere della pensione, oppure il sindaco di Tokyo, appartenente sempre all'LDP, espresse in un discorso pubblico disprezzo per le donne che avevano superato l'età della riproduzione. Commenti di questo tipo non sono ovviamente esclusivi del Giappone. Per esempio Bill Bensher, membro del Partito Liberale Australiano, critica l'ex leader dell'opposizione Julia Gillard facendo riferimento alla sua sterilità. Il modello politico che i membri del partito incarnano è quello del maschio eterosessuale egemone che incentra la sua vita sul lavoro, che veste in abito scuro, che crede nei valori della famiglia e dell'integrità morale. Questo modello emerse negli anni 60 e 70, periodo di crescita economica per il Giappone, periodo in cui i ruoli sessuali hanno subito un forte irrigidimento. L'uomo che lavora e la donna che lo sostiene stando a casa e occupandosi dei suoi bisogni. L'ingresso delle donne nel partito LDP viene così percepito come una minaccia ai privilegi maschili. Le donne che dunque invadono lo spazio maschile sono sempre sotto osservazione. Non possono permettersi di sbagliare per non vedere minata la credibilità che vengono a conquistarsi, quando vi riescono con grande fatica. Da una serie di interviste fatte da Emma Dalton sulla presenza delle discriminazioni all'interno del partito è emersa la poca importanza che si attribuisce a questo tema, la sua irrilevanza e banalità, come viene detto dagli stessi intervistati. Cosa questa che rafforza ancora di più l'idea che la questione è invece così grave da necessitare una forte censura. Il codice del silenzio protegge quindi la cultura maschiocentrica ed è possibile che esista un codice del silenzio perché le donne sono ancora poche. L'opposizione dei sessi e le discriminazioni che da essi derivano poi hanno raggiunto il loro apice negli anni 60 e 70, anni in cui le coppie eterosessuali, in cui i ruoli erano ben definiti, uomo che lavora, donna casalinga, hanno raggiunto il 36-37%. Le famiglie del periodo Tokugawa, invece, 1600-1868, non assomigliavano affatto a questo modello, ma piuttosto si costituivano come delle aziende a conduzione familiare in cui i ruoli erano molto meno delimitati e i rapporti impostati alla collaborazione. Questo a dimostrazione del fatto che la famiglia eterosessuale maschiocentrica non è per niente parte della tradizione, come molti vorrebbero far credere, ed anzi è il frutto del sistema capitalistico. Il dualismo pubblico-privato, uomo-donna, sono quindi funzionali in questo sistema a mantenere integri i privilegi degli uomini sulle donne. Per le donne dunque è difficile riuscire a far parte veramente della politica ed è altrettanto difficile riuscire a prendere posizione contro le discriminazioni e il sessismo. Solo quando le donne saranno di più, sostiene Emma Dalton, e lo diciamo anche noi, saranno capaci di sfidare il codice del silenzio e infrangerlo. Thank you. i temi della riproduzione sessuale e della decostruzione dello sguardo maschiocentrico sulla sessualità che ne consegue sono ampiamente trattati nei manga, nei graphic novels e nei fumetti scritti da autrici giapponesi femministe che rappresentano la componente principale dell'attuale produzione fantascientifica giapponese. La fiorente tradizione dei manga in Giappone ha dato la possibilità alle scrittrici giapponesi di inserirsi tramite i manga, per l'appunto, in un settore, quello della letteratura fantascientifica, che è interamente dominato dagli uomini, e di introdurvici in qualche modo il punto di vista femminista. Moto Aijo, con il suo Marginal, è la maggiore scrittrice femminista di manga fantascientifici. Appartiene alla generazione cosiddetta dell'anno 24 o Showa 24, il 1949 secondo il calendario cristiano, che ha ritratto attraverso i manga il punto di vista delle donne giapponesi sulla sessualità, affrontando allo stesso tempo il tema della maternità e della riproduzione, una tra le questioni centrali del pensiero femminista nipponico. Se da un lato l'atto riproduttivo di per sé viene percepito come la causa primaria di sofferenze e inuguaglianze che racchiude in sé la femminilità, è naturale che le donne, dopo aver demolito negli anni 70, negli ultimi 20 anni, il mito della maschilità come fonte di salvezza femminile, si chiedano a un certo punto che cosa succederebbe se potessero avere figli facendo a meno degli uomini. Cosa succederebbe se gli uomini non esistessero? E cosa succederebbe se la società fosse composta soltanto da uomini? Gli uomini che non hanno mai visto le donne non le sfrutterebbero di conseguenza. Senza gli uomini, afferma Aijo, di conseguenza l'idea che le donne siano cittadine di seconda classe forse nemmeno esisterebbe. Marginal è ambientato nell'anno 2999, anno in cui il pianeta Terra, a seguito di un disastro ecologico che ha reso le donne sterili, è stato disertato dalla specie umana, che è andata a vivere su Marte, mentre la Compagnia, una ditta familiare che gestisce un impero economico attraverso tutto il sistema solare, usa il pianeta Terra come base per condurre i suoi esperimenti. Sul pianeta vivono in sperduti villaggi circondati dal deserto soltanto uomini, che hanno un livello evolutivo pari a quello delle civiltà antiche e che vengono controllati a vista dagli elicotteri della Compagnia. Gli uomini credono che i bambini nascano e vengano dati loro dalla Santa Madre, che risiede nel tempio della città di Modor. Gli uomini depositano il loro seme e il loro sangue nel tempio santo quando raggiungono l'età adulta, un rito di passaggio conosciuto col nome di ricongiungimento alla madre. Dietro le quinte del tempio, intanto, la Compagnia insemina ovuli di donne che vivono sulla Luna e in altre colonie spaziali, con lo sperma degli uomini della Terra. Crescono i neonati in uteri artificiali e li consegnano agli uomini secondo una lista. Gli uomini sulla Terra non conoscono le donne, pertanto non provano né odio né amore nei loro confronti e non hanno rapporti hanno rapporti sessuali soltanto tra di loro. L'intento della Compagnia è quello di restaurare la maternità, fertilità, nell'inquinato ecosistema terrestre, ma dovrà presto concludere che quello è un caso senza speranza. Tuttavia, uno scienziato proveniente da Marte, la cui infanzia è segnata dal lutto per la madre morta a causa delle violenze inflitte dal padre, si ribella alla legge genetica e crea nel suo laboratorio un ermafrodita di nome Kira, una femmina umana con il corpo da uomo e i genitali femminili con capacità riproduttive, che assieme ad altri due uomini del deserto si metterà in cammino verso le oscure tenebre del destino e della morte, in cerca del segreto della maternità. Trust that it's coming. You've heard of love selection. Well, that's how we're gonna do it, baby. We allow men who wanna join us. The rest can just stay by themselves. Woman power. Aigio ha affermato che con Marginal ha voluto riesaminare la società matriarcale. Il fatto di ambientare il racconto nel futuro le ha dato la possibilità di sfuggire alle rumorose maglie della realtà secondo cui la femminilità è sinonimo di maternità. Un luogo in cui la maternità è stata cancellata è un luogo ideale per rimuovere l'analogia dall'equazione. Gli uomini comuni che vivono sulla Terra sono descritti come popoli oppressi dal potere della compagnia e questo elimina l'equazione semplicistica di uomini distruttori contro donne vittime. Mentre per questi uomini la Santa Madre è un dio in grado di procreare, per la compagnia invece non è altro che un semplice robot. Con questo racconto, Aigio mostra come la tecnologia sottometta e sconvolga la maternità, rendendola una culla per le grottesche illusioni degli uomini. Qui il concetto convenzionale, secondo cui l'uomo rappresenta la cultura e la donna la natura, viene posto di fronte a una svolta. Il conflitto fra natura e tecnologia è un'altra nozione semplicistica, ma la scrittrice non cerca di trarre conclusioni su chi tra le due sia meglio. Anzi, dal racconto emerge che entrambi i principi sono responsabili della morte della maternità. La presenza di Kira sulla Terra, questo ermafrodita che riesce a disattivare il fattore D, ossia Kira riesce a disattivare il fattore D, che è la sostanza che induce alla sterilità di cui è ricoperto il pianeta. Questo assunto ci rivela come le fondamenta della maternità non risiedano nella visione riproduttiva maschiocentrica della gravidanza, ma nell'esistenza stessa delle donne, gli esseri che tessono il filo della vita. La maternità contro cui Aigio si scaglia è ovviamente il concetto costruito di maternità, in cui le donne non hanno un ruolo attivo. La maternità come un trucco conveniente, utile a relegare le donne a un'esistenza da marionette. La questione posta da Aigio è la seguente: la maternità esiste dove risiede l'utero? Questo racconto rifiuta la visione materialista riproduttiva e propone una visione su scala globale della maternità come fonte della vita, ciò che rende la Terra, quello che rende in effetti la Terra un pianeta vivente. Aigio inoltre discute e confuta l'idea che l'utero contenga la maternità, una visione altamente individualista che pure si adatta perfettamente all'ideologia totalitaria, cioè all'ideologia maschiocentrica. Non esiste una donna che non si innervosisca, scritto nemmeno lontanamente, di fronte al concetto che essere una donna significhi essere una riproduttrice. Indipendentemente dall'avere figli o meno o dei punti di vista sulla riproduzione, le donne si sono chieste da sempre cosa sia la maternità, un attributo di cui la società suppone che tutte indistintamente debbano essere dotate. Thank you. siamo ai saluti, ma prima diamo uno sguardo rapido alle cantanti che abbiamo ascoltato in questa puntata. Abbiamo ascoltato tre canzoni di Yoko Ono, l'intraprendente musicista statunitense di origini giapponesi, icona dell'arte concettuale. Poi Yoko Kanno con la canzone Super Shaman Car, colonna sonora del film Kamikaze Girls, divertentissimo. E infine la famosa chitarrista di musica classica Kaori Muraji. Per maggiori informazioni o per scriverci, per parlare dei contenuti della nostra trasmissione, vi ricordiamo i nostri contatti connettive@gmail.com, oppure se volete visitate il sito www.shegame.altervista.org. Vi lasciamo a Kaori Muraji. Buonasera a tutte e a tutti. Spread themselves.